Bloom, nel mio programma ho la riforma della morale municipale e i 10 comandamenti puri e semplici. Mondi nuovi al posto dei vecchi, unione di tutti gli uomini, ebrei, musulmani e gentili, 3 jugeri e una mucca per ogni figlio di natura, autocarri funebri tipo berlina, lavoro manuale obbligatorio per tutti. Tutti i parchi aperti al pubblico giorno e notte, lavapiatti elettrici, tubercolosi, follia, guerre e mendicità devono cessare da oggi. Amnistia generale, carnevale settimanale con libertà di mascherarsi, gratifiche a tutti, Esperanto la lingua universale con la fratellanza universale. Basta col patriottismo dei politici da caffè e degli impostori ipertrofici. Libero denaro, libero affitto, libero amore e libera chiesa laica in libero stato laico. O Madenberg, libera volpe in libero pollaio. David Byrne, sbadigliando. Bloom, razze miste e matrimonio misto. Lenean, e perché non bagni misti? Bloom spiega a coloro che gli sono vicini i suoi progetti di rigenerazione sociale. Tutti concordano. Il conservatore del museo di Kildare Street appare tirando un carro su cui sono le statue vacillanti di varie dee nude: Venere Callipigia, Venere Pandemia, Venere Metempsicosi e figure di gesso, anch'esse nude, rappresentanti le 9 nuove muse: commercio, musica operistica, Cupido, pubblicità, manifattura, libertà di parola, suffragio universale, gastronomia, igiene personale, concerti balneari, parto indolore e astronomia per il popolo. Padre Ferli è un episcopale, un agnostico, un qualsiasi cosistico che cerca di sovvertire la nostra santa fede. Mrs. Riordan strappa il testamento. Che delusione mi ha data! Spregevole individuo. Nonna Grogan si leva una scarpa per tirarla a Bloom. Animale, essere abominevole. Nosey Flynn, facci sentire un motivetto, Bloom, una delle vecchie canzoni d'amore. Bloom, con brioso umorismo. Di mai non lasciarla avevo giurato, e lei crudelmente m'ha ingannato, e trallerallera, lallerallallerallà. Olo allo zoppino, buon vecchio Bloom, non ce n'è un altro come lui, tirate le somme. Paddy Leonard, irlandese d'operetta. Bloom, quale opera si ascolta sempre a metà? La semiramide. Semiramide. Si ride. Lenea, plagiario, abbasso Bloom. La sibilla velata. Entusiasticamente. Sono blumista e me ne vanto. Credo in lui nonostante tutto. Darei la vita per lui, l'uomo più buffo del mondo. Bloom strizza l'occhio agli astanti. Scommetto che è una vezzosa garzoncella. Theodore Purfoy, con berrettino e giacchetta incerata da pescatore. Usa espedienti meccanici per frustrare i sacri fini della natura. La sibilla velata si pugnala. Mio semidio! Muore. Molte altre donne, assai attraenti ed entusiaste, si suicidano pugnalandosi, annegandosi, ingerendo acido prussico, aconito, arsenico, aprendosi le vene, rifiutando il cibo, gettandosi sotto rulli compressori dall'alto della colonna di Nelson nel grantino della distilleria di Guinness, asfissiandosi col mettere la testa dentro forni a gas, impiccandosi con eleganti giarrettiere, gettandosi giù da finestre a differenti piani. Alexander J. Dowie, violentemente. Miei fratelli in Cristo e antiblumisti, quest'uomo di nome Bloom proviene dai penetrali dell'inferno, è un'onta per la cristianità. Libertino demoniaco, fin dalla più tenera infanzia, questo fetido caprone di Mendes dava segni così precoci di depravazione infantile da risvegliare il ricordo delle città maledette, e tutto ciò con una vecchiarda dissoluta, Questo torpe ipocrita, indurito nell'ignominia, è il toro bianco menzionato nell'Apocalisse, adoratore della donna scarlatta. La frode gli spira dalle nari. A lui le fascine del rogo e la caldaia d'olio bollente. Calibano! La folla. Linciatelo! Arrostitelo! È peggio di Parnell! Messer Volpe! Nonna Grogan tira la sua scarpa a Bloom. Svariati bottegai di Dorset Street, superiore e inferiore, gli tirano oggetti di poco punto valore commerciale: ossi di prosciutto, scatolette di latte condensato, cavolo invendibile, pane raffermo, code di pecora, vari ritagli di grasso. Bloom, concitatamente. Questa è follia di mezz'estate, un altro scherzo macabro. Per il cielo, sono innocente come neve non tocca dal sole. È stato mio fratello Harry, è il mio sosia. Abita al numero 2 di Dolphin's Barn. Calunnia, quella vipera, mi ha accusato a torto. Concittadini, sgheul, in barba atacoste, gan capal. Mi appello al mio vecchio amico, il dottor Malachi Mulligan, sessuologo per un referto medico in mio favore. Dottor Mulligan, in giubbetto di cuoio, occhiali verdi da automobilista sulla fronte. Il dottor Bloom è bisessualmente anormale. È fuggito di recente dalla casa di cura del dottor Eustace per signori affetti da malattie mentali. Figlio di mano sinistra, presenta sintomi di epilessia ereditaria, postumi di libidine incontrollata. Tracce di elefantiasi sono state rilevate in alcuni degli ascendenti. Si notano anche sintomi marcati di esibizionismo cronico. Ambidestrismo latente. La calvizie prematura è dovuta alla Venere solitaria, che ha fatto di lui un idealista pervertito, un libertino pentito dai denti metallici. In conseguenza di un complesso familiare, ha momentaneamente perduto la memoria e credo che sia un uomo contro il quale si è peccato più che non sia egli stesso peccatore. Ho fatto un esame per vaginale e previa applicazione di un reagente acido a 5.427 peli anali, ascellari, pettorali e pubici. Lo dichiaro virgo intacta. Bloom si para gli organi genitali col migliore dei cappelli. Dottor Madden, vi sono anche sintomi marcati di ipsospadia. Nell'interesse delle generazioni future, suggerisco che le parti infette siano conservate sotto spirito divino al Museo Nazionale di Teratologia. Dottor Crotters, ho analizzato l'urina del paziente. È albuminosa, la salivazione è insufficiente, il riflesso patellare intermittente. Dottor Pancio Costello, il feto iudaicus è apprezzabile in grado rilevante. Dottor Dixon, legge un referto medico. Il professor Bloom è un esempio compiuto del nuovo uomo femminile. La sua indole morale è semplice e amabile. Molti hanno trovato in lui una cara e brava persona. È piuttosto bizzarro nel complesso, timido ma non debole di spirito nel senso medico. Ha scritto una lettera veramente bella, un vero e proprio poema, al delegato giudiziario della Società per la protezione dei preti pentiti, che chiarisce tutto. È praticamente astemio e posso affermare che dorme sulla paglia e si nutre nel modo più spartano possibile, piselli secchi freddi. Porta il cilicio di pura manifattura irlandese, d'inverno ed estate, e si frusta per penitenza ogni sabato. È stato, mi risulta, il riformatorio Glencree, che lo contava un tempo tra i discoli di prima categoria. Un altro rapporto ci informa che è stato un figlio straordinariamente postumo. Faccio appello alla vostra clemenza in nome della parola più sacra che i nostri organi vocali siano mai stati chiamati a proferire. Sta per avere un bambino. Commozione ed emozione generali. Donne svengono. Un ricco americano fa una colletta per Bloom. Monete d'oro ed argento, assegni in bianco, banconote, gioielli. Buoni del tesoro, cambiali scadute, pagherò, fedi matrimoniali, catene d'orologio, medaglioni, collane e braccialetti vengono raccolti rapidamente. Bloom. Oh, vorrei tanto essere madre. Mrs. Thornton. in camice da infermiera. Abbracciami stretta, cara. Tutto finirà presto. Stretta, cara. Bloom l'abbraccia strettamente e partorisce 8 figli maschi, bianchi e gialli. Compaiono su una scalinata adorna di un tappeto rosso e piante rare. Gli ottupli sono tutti belli, con pregevoli facce metalliche, ben fatti, ragguardevolmente vestiti e ben educati. Parlano correntemente 5 lingue moderne e si interessano di varie arti e scienze. Ciascuno di essi ha il nome stampato leggibilmente sullo sparato della camicia: Naso d'oro, Goldfinger, Chrysostomos, Mandoré, Silver Smile, Silver Silber, Vifarjan, Panagiros. Sono immediatamente designati a coprire alte cariche pubbliche in svariati paesi in qualità di direttori di banche, dirigenti di compagnie ferroviarie, presidenti di società a responsabilità limitata, vicepresidenti di sindacati alberghieri. Una voce: Bloom, sei il messia Ben Joseph? O il messia Ben David. Bloom, oscuratamente. L'hai detto? Frate Ronza, allora fa un miracolo, come padre Charles. Bantam Lyons, profetizza chi vincerà il premio Saint-Léger. Bloom cammina su una rete, si copre l'occhio sinistro con l'orecchio sinistro, passa attraverso svariati muri, si arrampica sulla colonna di Nelson. Si appende per le palpebre al cornicione superiore. Mangia 12 dozzine d'ostriche, gusci compresi. Risana diversi sofferenti di scrofola, male del re. Contrae il volto, sì da rassomigliare a molti personaggi storici: Lord Beaconsfield, Lord Byron, Wat Tyler, Mosè d'Egitto, Mosè Maimonide, Mosè Mendelssohn, Henry Irving, Rip Van Winkle, Kossuth, Jean-Jacques Rousseau, il barone Leopold Rothschild, Robinson Crusoe, Sherlock Holmes, Pasteur. Volta ciascun piede simultaneamente in direzioni diverse, ordina alla marea di tornare indietro, eclissa il sole alzando il dito mignolo. Brini, nunzio papale, in uniforme da zuavo papalino, con armatura d'acciaio, comprendente corazza, bracciali, cosciali, gambiere, gran baffi profani e mitra di carta da imballaggio. Leopoldi autem generatio, Mosè generò Noè, e Noè generò Eunuch, ed Eunuch generò Oalloran, e Oalloran generò Guggenheim, e Guggenheim generò Agendath, e Agendath generò Netaim, e Netaim generò le Hirsch, e le Hirsch generò Jesurum, e Jesurum generò Mackay, e Mackay generò Ostrolopski, e Ostrolopski generò Smerdoz, e Smerdoz generò Weiss, e Weiss generò Schwarz, e Schwarz generò Adrianopoli, e Adrianopoli generò Aranjes, e Aranjes generò Lewis Lawson, e Lewis Lawson generò Ichabunodonosor, e Ichabunodonosor generò O'Donnell Magnus, e O'Donnell Magnus generò Christbaum, e Christbaum generò Ben Maimum, e Ben Maimum generò Sbren Dolone, e Sbren Dolone generò Ben Amor, e Ben Amor generò Jones Smith, e Jones Smith generò Savornianovich, e Savornianovich generò Jefferson, e Jefferson generò Ventuniem, e Ventuniem generò Zombateli, e Zombateli generò Virag, e Virag generò Blum, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Una mano di morto scrive sul muro: Blum è un ghiozzo. Piattone, vestito da guardaboschi. Cosa faceva nel chiuso del bestiame dietro a Kil Barrak? Un infante di sesso femminile scuote la raganella. E sotto il ponte Balibo? Un cespo di agrifoglio. E nella valletta del diavolo? Bloom arrossisce furiosamente dalla fronte alle natiche. Tre lacrime gli cadono dall'occhio sinistro. Abbiate riguardo del mio passato. I fittavoli irlandesi sfrattati, in corpetti, brachi al ginocchio, con mazze da fiera di Donnybrook. Mazzoliamolo! Bloom, con orecchie d'asino, si siede sulla gogna, braccia conserte, piedi sporgenti in fuori. Fischietta Don Giovanni a cenar teco. Alcuni orfani di Artane, tenendosi per mano, gli ballano intorno al girotondo. Ragazze della società di assistenza agli ex carcerati, tenendosi per mano, ballano il girotondo in direzione opposta. Gli orfani di Artane. Brutto porco porcellino, credi d'averle tutte nel taschino? Le ragazze della società di assistenza. Se vedi K, digli che schiappa e vada via da parte mia. Hornblower. Con l'effo del berretto da battitore annuncia. Ed egli prenderà su di sé i peccati del popolo e li porterà ad Azazel, lo spirito che è nel deserto, e a Lilith, la strega della notte, e lo lapideranno e lo conspurcheranno in verità tutti quelli di Agendath, Netaim e di Mizraim, la terra di Ham. Tutti tirano a Bloom pietre morbide da pantomima. Molti viaggiatori in buona fede e cani senza padrone si avvicinano e lo conspurcano. Mastianski e Citron si avvicinano vestiti di gabardine, con lunghi orecchini. Agitano le barbe verso Bloom. Mastianski e Citron. Belial! Lemlain istriano! Falso messia! Abulafia! Ritratta! George R. Mesias, il sarto di Bloom, compare, ferro da stiro sotto il braccio, presentando il conto. Mesias, per modifica un paio di pantaloni, 11 scellini. Bloom si frega allegramente le mani. Proprio come un tempo, povero Bloom. Reuben J. Dodd, iscariota dalla barba nera, cattivo pastore, recando sulle spalle il cadavere del figlio annegato, si avvicina alla gogna. Reuben J. sussurra con voce roca. Siamo fregati. Qualche spione è andato a chiamare Piedipiatti. Prendiamo il primo treno. I pompieri. Pepe! Frate Ronza riveste Bloom di un abito giallo ricamato di fiamme dipinte e gli mette in testa un berretto a punta. Gli infila al collo un sacchetto di polvere da sparo e lo consegna al braccio secolare dicendo. Perdonate gli suoi trascorsi. Il luogotenente Myers dei pompieri di Dublino, su richiesta generale, dà fuoco a Bloom. Lamentazioni. Il cittadino. Dio sia lodato! Bloom. In un indumento senza cuciture, marcato IHS, si erge tra fiamme da fenice. Non piangete per me, o figlie di Erin! Mostra ai cronisti di Dublino tracce di bruciature. Le figlie di Erin, con indumenti neri, gran libri di preghiere e lunghe candele accese in mano, si inginocchiano e pregano.